Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. L'arrivo era previsto per le 22, ma in realtà si arriva quasi due ore dopo, in una nuovissima stazione per bus, alla periferia, a 3 km dal centro. Siamo al capolinea e con me, dall'autobus, scendono solo due signore, che se ne vanno in macchina, e un ragazzino che attende papà Costantin. Sono Boaglio Lelio, vivo a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo, lavoro in un multinazionale di materiale d'attrito, ho la passione della corsa in montagna e in particolare dello skyrunning. Allora, oggi con la storia di Lelio volevamo parlare di ospiti che non conosci, ma che ospiti a casa tua. Ed è arrivata però, prima di cominciare a raccontare la sua storia, prima di fare qualsiasi cosa, un racconto di Riccardo che è straordinario. È arrivato proprio poco prima della diretta. Portrese, Slovenia, 1997. Io e il mio amico Stefano avevamo 20 anni ed era il nostro primo viaggio all'estero on the road. Per passare prima notte, la prima notte in assoluto del nostro viaggio, decidemmo di cercare una camera. Ai tempi i costi erano così irrisori che affittammo per solo due notti un'intera villetta con due camere, giardino e un'amaca a sole 100.000 lire, in due per due giorni. Dopo poche ore dall'aver affittato la villetta, la proprietaria ci viene incontro e ci dice: «Scusate, potreste ospitare due persone che sono amiche di famiglia? Non preoccupatevi, sono italiani, vi faccio pagare la metà». Noi, squattrinati, allettati dall'ulteriore sconto e con il manifreghismo dei ventenni, ovviamente accettiamo. Arrivarono questi due ragazzi veneti, sui 30-35 anni, ed iniziamo a fare amicizia con loro. Dopo 10 minuti ne arrivarono altri tre, di cui nessuno ci aveva avvisato, ma loro dissero: «Beh, stiamo arrivando alla spicciolata perché ci siamo fermati in varie cantine lungo la strada, da Belluno passando per il Friuli». Dopo poco arrivarono altri tre, i cui nomignoli erano Cicciuzzo, il colonnello e il capo. Alla sera uscimmo con loro, ci portarono in un locale che conoscevano e dove a dir loro si beveva bene. Poi loro in nottata si sarebbero fiondati al casinò, noi due pischelli saremmo andati a cercare di rimorchiare in maniera fallimentare in una discoteca slovena. Al nostro rientro in casa, alle 4 di notte, aprimo la porta e trovammo una ragazza in mutande che sbirciava nel frigo. Passammo la notte in camera con tre sconosciuti che dormivano su una brandina, due per terra. Nell'altra camera c'erano gli altri ammassati su un letto matrimoniale e per terra gente buttata sui teli da mare. Ma il capo, detto The Chief, aveva riservato per sé l'amaca in giardino, dalla quale si svegliò solo la mattina, verso le 11, a causa del caldo. Per colazione beve un caffè corretto, ma non ricordo bene da che cosa. Ecco, non ci vogliono storie proprio come questa per partecipare al programma di oggi o per avere una storia simile a quella di Lelio. Basta aver ospitato uno sconosciuto, qualcuno che si è raccattato per strada o semplicemente era amico di un amico, oppure come è capitato a Tatiana, questa è un'altra, vedi delle madri norvegesi. Mia madre norvegese, una sera di 20 anni fa, porta a casa un camionista a cena e poi gli fa passare la notte in casa. Lei viaggiava tranquilla per andare al lavoro, ha visto la targa del camion norvegese e non ha potuto esimersi dal fermarsi a fare due chiacchiere e poi portarlo a casa a cena e per passare la notte. 349 238 6666, ma anche voi siete qui, @radio24.it, ma diamoli tutti. C'è anche un profilo Facebook che è sempre quello, è quello del programma, si chiama Matteo Caccia, io sono qui. È arrivata un'altra storia, vabbè, lo dico, chi l'ha scritta la sa, mi dovete mettere l'allegato, altrimenti è complicato, no? Se mi scrivete ecco la mia storia, non c'è l'allegato, magari me la rimandi, è sempre quello. Voi siete qui, @radio24.it. ieri sera però ero a cena con delle persone dopo uno spettacolo e a un certo punto è venuto fuori che tra le persone a cena c'era un tizio, un signore a 45-50 anni che ascoltava il programma. E mi ha veramente stupito quando mi ha chiesto: «Ma scusami, ma le storie che arrivano sono vere? Cioè, te le mandano veramente le persone? Quindi le persone che senti al telefono sono gli ascoltatori?» E io ammetto che mi sono stupito, nel senso che per chiunque avesse questo dubbio, sappiate che è molto più complicato inventarsele tutte, trovare delle persone che per finta facciano la parte delle persone che hanno scritto quei racconti, che non dire scrivete un episodio della vostra vita che in qualche modo racconta di voi e mandatelo a voi siete qui, @radio24.it. E lui era stupitissimo perché mi diceva: «Ma è incredibile, ma le storie sono tutte bellissime, sembrano finte». Continuate a scrivere, voi siete qui, @radio24.it, prendetevi mezz'ora del vostro tempo. Pensate a una piccola cosa che racconti qualcosa di voi e inviatemela. Ci facciamo una puntata, se vale la pena, ma sono sicuro che ne vale la pena. 349-238-6666 invece, perché oggi si parla di quegli ospiti che in qualche modo ti capitano in casa, in qualche modo non li conosci e in qualche modo ti regalano qualcosa. Presto o tardi capita a tutti di essere i destinatari di un piccolo miracolo, di un evento che ci porti a pensare che lassù qualcuno ci ama, come il film con Paul Newman, o che sì, c'è qualcuno che si è accorto che avevo bisogno d'aiuto. E così una situazione negativa si risolve come mai si sarebbe potuto sperare. In quei casi divento fiducioso e immagino che ci sia un occhio vigile su tutti gli uomini del mondo e che decide chi merita di essere aiutato e chi no. A volte sono combinazioni che salvano le vite, a volte evitano disastri, altre volte semplicemente risolvono situazioni complicate. In questo caso in particolare avevo prenotato il volo alla sera prima e sono partito al mattino. Non amo prenotare alberghi, viaggio da solo quando posso, preferisco farlo nei periodi non affollati, a piedi, a volte in bici, amo andare un po' dove mi porta, diciamo, il vento. E può anche succedere che non ci si accorga neppure del regalo ricevuto. Io però quella volta capii subito che mi era andata bene. Infatti, quante possibilità ci sono di trovare a mezzanotte, tra quattro persone presenti in una sperduta stazione nel nord della Grecia, un greco che parla italiano? Ve lo dico io, pochissime. E quante di trovarne uno che alla mia richiesta di cercare un hotel, invece di rispondermi che il più vicino si trova a 3 chilometri e che a quell'ora non ci sono taxi o bus per andarci, mi ospita a casa sua e mi offre non solo un letto, ma anche una cena e la colazione. Beh, è andata proprio così. Erano gli ultimi 4 giorni di vacanza di un fine settembre e io ero stanco di passare da un'isola all'altra delle Cicladi. E a un certo punto mi ricordai di un paesaggio che avevo visto su un giornale da ragazzino. Meteora si chiamava il posto. E allora decisi di andarci. Prendo un traghetto e mi trovo ad Atene, dove il bus in meno di 8 ore mi dovrebbe portare al nord della Grecia, in una zona chiamata Thessalia, precisamente a Tricala. Quel giorno ho imparato che i mezzi pubblici in Grecia non sono sempre puntuali. L'arrivo era previsto per le 22, ma in realtà si arriva quasi 2 ore dopo, in una stazione nuovissima per bus alla periferia, a 3 chilometri dal centro, in mezzo ai prati e vicino solo alle luci di un semaforo, senza nemmeno capire dove esattamente sia il centro del paese. Siamo al capolinea e con me, dall'autobus, scendono solo 2 signore che se ne vanno in auto e un ragazzino che attende papà Costantin. Costantin era una persona che di aspetto sembrava un agricoltore, in realtà lui l'ha definito ingegnere, penso fosse un geometra, però. Mi ha ospitato in una villa nuovissima, tra l'altro bellissima anche. Suo figlio arrivava da una corsa di campionati europei di ciclismo su strada e arrivava forse dalla Spagna in quell'occasione. Sono un po' stanco, sono in un posto sperduto della Grecia ed è mezzanotte. Ora ci vorrebbe uno che parlasse italiano. Costantin negli anni 80 ha lavorato a Pavia per quasi 5 anni e quando in inglese gli chiedo se esiste un hotel in zona, capisce subito che sono italiano. Mi prende lo zaino e mi dice: dai, vieni a casa mia. Una botta di fortuna che ci voleva. E allora lo ringrazio e mi metto in pace con il mondo. Sono passati 4 anni e della Grecia a suo malgrado si sente parlare ogni giorno. Io però continuo a ricordarla come un posto magico. E ogni anno, a settembre, vado a fare le vacanze con il mio zaino, sperando che il bus ritardi e io possa incontrare ancora una volta un altro Costantin. Only solution, sex and revolution. Welcome and have a nice holiday. Welcome to Greece, have a nice holiday. Ciao Blastonilio, ti amo Snake. Welcome to Greece, have a nice day. Welcome to Greece, have a nice holiday. Già sento avrio messa sta play. Welcome to Greece, have a nice day. Ospitare qualcuno a casa propria è forse il gesto di maggiore generosità e capacità di condivisione che esista. Quanti di voi l'hanno fatto nella propria vita? E intendo ospitare uno sconosciuto, non l'amico, il cugino, e neanche fare il couchsurfing. No, parlo di altro. Non credo in tanti. E anch'io sono in difficoltà quando ci penso, e forse è una cosa di quelle cose che non farei mai, perché in fondo, ma proprio in fondo, non sono veramente un santo. Poi però, dopo aver letto il racconto di Lelio, ho pensato a Samir. Qualcuno di voi probabilmente se lo ricorderà, Samir. Il ragazzo tunisino che la mia ragazza l'anno scorso ha pensato bene di piazzarci in casa. Sono andato a rileggere com'era andata, con precisione, perché non me lo ricordavo bene. E ho ritrovato proprio un pezzo del mio diario, quello che vi raccontavo lo scorso anno in onda. Era una serata in cui volevo farmi perdonare qualcosa, probabilmente, e avevo intenzione di passare del tempo con lei cucinando. Ed ecco come andò. Io continuo a cucinare e le verso del vino. E mentre il bicchiere si riempie, sento distintamente il suono dello sciacquone nel cesso. E qualcosa non mi torna. E salto un po' su, perché quello dei vicini non può essere. E quindi deve essere il nostro, di sciacquone. E lei sorridente mi rassicura: no, no, tranquillo, abbiamo un ospite. E io, con la mia bottiglia di Chianti da 3 euro in offerta all'Esselunga, comprata solo per lei, vedo uscire dal bagno un tizio dalla cornagione scura che mi guarda sorridente mentre si asciuga le mani nel mio accappatoio e mi dice: ciao Matteo, sono Samir, è una bella casa la tua. E io lo so che è bella casa mia, ma non so chi diavolo sei tu, mi verrebbe da dire. Solo che le parole non mi escono. Allora ci pensa lei e scopro che Samir è un ingegnere tunisino di 25 anni, scappato dalla guerra civile. Si è rifugiato in Italia. Si è fatto 50 km di mare su un barcone ed è arrivato a Lampedusa. Poi da lì la sua ONG l'ha recuperato e lei, la mia ragazza, si è offerta di dargli un alloggio. Temporaneo, eh? Casa nostra. Ma sarà solo per qualche giorno. E allora a me vengono da dire cose tipo: ma certo, certo, ma figuriamoci, ci mancherebbe, poi ragazzi, la guerra civile. E lui mi porge il bicchiere per farsi versare del vino, mi ringrazia, tutto in un italiano perfetto. Ottimo, dico io, anzi meglio così, perché sulle porzioni del couscous ero stato un po' abbondante. Che bella la solidarietà, eh? E buon appetito. Ecco, era questo qua il diario dell'anno scorso, non so se lo ricordavate. Da ste parole si sente che non l'avevo proprio presa bene all'inizio. Solo che poi con Samir ci siamo trovati anche bene, a parte che era milanista. E quando è partito per Linz e si è messo a fare il pizzaiolo, alla fine mi è dispiaciuto. Mi è mancato. E ieri, mentre leggevo questa storia sull'ospitalità, ho deciso di chiamarlo su Skype per chiedergli come stava. E mentre lo cercavo mi tornava in mente l'odore delle spezie che si era portato del viaggio. La sua maglietta di Seedorf. O il disordine della stanza e tutte le discussioni su suo fratello che non aveva il coraggio di andarsene da Tunisi e che invece lo accusava di non avere lui il coraggio di restare. Era l'epoca della primavera araba, erano quei mesi lì. E quando il faccione di Samir è apparso sullo schermo del PC, a momenti mi commuovo. E vedo che anche lui è contento di vedermi e di sentirmi. Insomma, ci parliamo un po', ci diciamo i nostri cambiamenti di vita, che non sono tanti, ma quando non ci si sente da mesi sembrano sempre così. E ci trattiamo come se fossimo amici, da sempre. Ed è piacevole parlare con lui. Allora gli chiedo un sacco di cose, su come si trova, come vede il suo futuro a Linz. E lui parla ancora tanto, e non mi mette fretta, solo che a un certo punto mi dice che deve andare a cucinare, perché ha un ospite. E io mi immagino uno dei soliti mille che girano in casa, invece lui si sposta e me lo mostra. È suo fratello. È andato a trovarlo, e se ne stanno lì, abbracciati e sorridenti. Dice che lui non capisce l'italiano, quindi possiamo dire quello che ci pare. E allora, ridendo, lo insulta un po', mi dice che è una testa dura, ma che alla fine hanno fatto pace e sono contenti così. E che forse più avanti anche lui tornerà in Tunisia, ma che per ora no. Gli piace ancora fare la pizza a Linz, dove tutti lo scambiano per italiano. Non lo so com'è, forse non funziona ogni volta in questo modo, ma a me è andata molto bene. Quando ho ospitato qualcuno, e nemmeno volevo farlo, ci ho solo guadagnato. Some folks like water, strychnine. Some folks like wine, strychnine. But I like the taste, strychnine. Of straight strychnine. Strychnine. You may think it's funny that I like this stuff. Once you've tried it, you can't get enough. If you listen to what I say, you're gonna try strychnine someday. Stasera ospito tre russi, amici di mia moglie. Anche lei li conosce poco, speriamo bene. Ciao Nicola, in bocca al lupo. Sono Daniel, ho ospitato a casa due daci per due settimane. E probabilmente ci sarà qualcuno all'ascolto dalla Grecia, magari che ascolta in streaming, si chiama Costantin, e dice: anch'io anni fa ho ospitato uno, si chiamava Lelio. Pronto, Lelio? Ciao Matteo, ciao a tutti. Ciao, come stai? Siamo a fine giornata, va bene. Siamo a fine giornata perché cosa fai nella prima parte della giornata? Ma no, nel senso che termino il mio lavoro alle 18. Ma quindi sei nel solito bagno dove si rifugiano tutti quelli che si collegano, no, in diretta? No, noi abbiamo un bel piazzale dove si sta tranquilli. Senti, scusami, tu hai detto in apertura che lavori per una multinazionale che fa materiali d'attrito, giusto? Sì. Cosa vuol dire? Cioè, in prevalenza pastiglie freno a disco. Ah, dalla Panda, ok. Dalla Panda alla Ferrari, diciamo. Ma scusami, ma dove si trova questa multinazionale? Ma la multinazionale, la sede in America. Ah, no, ho capito, ma lì tu di dove sei? Dove sei in questo momento? Vicino al paese dove abito, a 5 km a Bargi, provincia di Cuneo sempre. Ah, sei proprio del Cuneo, sei del Piemonte vero, non un Piemonte come il mio, quel che è un po' imbastardito. Praticamente... se guardo giù vedo la pianura, se guardo su vedo le montagne. Senti, Lelio, quanti anni hai? Ne ho 46. Ma e vai ancora in vacanza con lo zaino? Ho iniziato un po' tardi, diciamo quando mi sono separato ho cercato di cambiare un po' stile, cioè, di vita. Tu hai fatto la vita al contrario, cioè quando da ragazzini si va con lo zaino poi ci si sposa. No, l'ho fatto da ragazzino, poi ho interrotto un po' e poi ho ricominciato. Quindi da quanto che hai ricominciato più o meno? E ormai sono 7 anni. E dove sei stato l'ultima volta? L'ultima volta in Sardegna. Ma scusami, quindi con lo zaino vuol dire che poi dormi nei campeggi o dove capita? Alberghi, campeggi, dove trovo io, diciamo che settembre, fine settembre non è mai un problema. E vai da solo? Quasi mai. Prevalentemente sì, perché poi le mie vacanze sono abbastanza faticose alla fine della giornata. Non sei uno a cui piace tanto stare in compagnia, Lelio, o chiacchierare, o sbaglio? No, se c'è occasione lo faccio volentieri. Se c'è occasione è straordinario, guarda se c'è occasione di chiacchierare, se no sto anche in silenzio. Senti, devi ritornare al lavoro, giusto? Quindi ti stiamo rubando del tempo. Sì, ma una pausa. Va bene, va bene. Comunque ti lascio andare perché devo dare la borsa. Ma volevo però chiederti una cosa, perché è scoppiata una discussione animata in redazione. Ti farò una domanda alla quale tu puoi decidere di non rispondermi. È una domanda che non faccio di solito, però è questa qua. Parte esattamente da questa frase che tu hai scritto. In questi casi, cioè quando trovi delle persone che ti aiutano gratuitamente, come ha fatto Costantin, divento fiducioso e immagino che ci sia un occhio vigile su tutti gli uomini del mondo che decide chi merita di essere aiutato e chi no. La domanda è: voti a destra o voti a sinistra? Voto a sinistra. Lelio, ti ringrazio, buon lavoro e buona giornata. Ma non volevo grazie dire, ancora, ma... ciao, grazie. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato, Lelio ha lo zaino in spalla, come mi aspettavo, però sta facendo di fatto trekking. Mi pare sia sulle Dolomiti, però non vorrei dire una baggianata. Allora, Bonini dice che è facile, ma non è detto, perché ci sono dei pinnacoli, si chiamano così. Però è su una sassaia, è appena sotto il limite degli alberi. Niente, sto dicendo veramente cagate dietro l'altro. Lelio, forse è una morena, mi suggeriscono dalla regia. Lelio ha su una maglietta arancione da trekking, è minuscola, la sua foto si vede pochissimo, ma ringraziamo comunque Lelio per avercela mandata, e ha una bella faccia di uno che ha voglia di farsi un giro con lo zaino in spalla. Mi sta molto simpatico Lelio, non so esattamente perché, però il tono, l'accento super piemontese, e poi mi scrivono che sono provinciale. C'è uno che mi scrive sempre che sono provinciale perché parlo di Milano. Non so chi tu sia, palesati se stai ascoltando però. 349-238-6666, come se parlare di una città voglia dire essere provinciale. Poi manco sono provinciale, sono proprio del paese, io sono di Romentino, figurati. Gabriele scrive: io non ospito nessuno. Cristina: ho ospitato 3 ballerini di tango senza sapere nulla di loro, solo che erano amici dei miei insegnanti e già io li sognavo alti, belli e muscolosi. Sono state persone fantastiche, mi sono divertita un mondo, si sono fermati per 2 sere e poi sono ripartiti, 2 per Nizza e 1 per Brescia. L'unica cosa L'unica cosa è che potevano essere i miei genitori. C'è effettivamente sui ballerini di tango. Mi è capitato a Lisbona di finire per caso in una come si chiama? Una sala di tango, una tangheria, non so se si chiami così. E devo dire che i ballerini di tango, soprattutto gli uomini, non erano proprio avvenenti, però comunque si muovevano in un modo che ti faceva capire che potevano piacere ad una donna, immagino. 349-238-6666. A Melita, io mi ricordo di un artista di nome Remigius, polacco, che era venuto nel nostro, e mi auguro fosse un nome d'arte, era venuto nel nostro micro paese per partecipare a una micro mostra d'arte che mio padre, sarebbe stato meglio mio micro padre, aveva organizzato per, con qualche amico dell'accademia. Faceva delle sculture con le bottiglie di plastica. È stata a casa nostra per qualche giorno. Spero sia passata quella moda lì di fare le sculture con le bottiglie di plastica. Mi ricordo delle auto fatte con le bottiglie di plastica, perché è un po' anni 90, direi. E poi ancora Anna, eccola qua. In autobus a Milano sulla 91. Ora dovete sapere che la 91, o meglio la 90-91 di Milano, è una specie di zona di frontiera dove se ti capita di salirci ti senti veramente in mezzo a un mondo. A me capitava di prenderla quando facevo un lavoro in un posto che era esattamente sulla circonvallazione, che è l'anello esterno di Milano, ed ero spesso l'unico italiano che sull'autobus dopo le 10:30. Ero sulla 90-91, ore 23-24 circa. Rientravo dopo lo studio e una ragazza spagnola mi chiede informazioni su un albergo a una stella. È vicino a casa mia, le dico, scendi con me. Scendiamo, lei mi dice No tengo dinero, che oltre a essere una vecchia canzone dei Righeira, è anche evidentemente un'espressione che significa non ho soldi. L'ho ospitata. L'indomani con le coinquiline capimmo che non era una ragazza in vacanza che aveva terminato i soldi. Oh Isabel. Finisce così il messaggio, eh? O Isabel, punto esclamativo. Anna, dici cosa faceva allora, perché così lascio immaginare tutto e nulla. Ringrazio anche chi scrive che se Oscar Giannino sapesse qual è il bagno in cui tutti si rifugiano per le telefonate in diretta, lo abbatterebbe con un bazooka. Mi piace immaginare che ci sia un unico bagno per tutti quanti, dove si rifugiano. È un luogo della mente, dove tutti si rifugiano attorno alle 4:25 per telefonare a noi. 349-238-6666. C'è anche una mail, voi siete qui, @radio24.it, dove ha scritto Mirko, che racconta un po' come ha scritto Gabriele. Lui non ospitava nessuno e poi le cose nella vita cambiano. Caro Matteo, ho un divano che non è un divano letto perché non voglio ospiti a casa. Ho 42 anni e ho trascorso gli anni dell'università in una decina di appartamenti diversi in cui praticamente ogni settimana cambiavo coinquilini. Ho ospitato gente che veniva da posti che nemmeno sapevo esistessero, che parlava lingue totalmente sconosciute, che fumava sostanze mai sentite e adorava divinità per me inesistenti. Una sera, dopo un principio d'incendio causato dalla brace di un cilum di 30 centimetri, mi ripromisi che nella mia casa, quella vera intendo, non avrei mai più ospitato nessuno. Ecco perché 7 anni fa, quando ho dovuto scegliere il divano, scartai immediatamente l'ipotesi divano-letto. Perché se non ce l'hai, mi dissi, è più facile dire di no a quelli che ti chiedono ospitalità. Poi ho incontrato la donna di cui mi sono innamorato. Una sera la invitai a cena a casa mia, chiacchierammo a lungo, e quando venne il momento di tornare a casa, lei mi disse che se non mi dispiaceva, rimaneva a dormire da me. Le risposi che purtroppo il divano letto non ce l'avevo, e lei probabilmente prese questa come un avance maldestra e mi disse che non era un problema, sarebbe tornata a casa. Mi sono odiato per tutta la notte, per il divano e per la mia stupida rigidità. Ci siamo sposati, io e lei. E come legge del contrappasso, lei è la persona più sociale e socievole che conosca. E fosse per lei, ospiterebbe sempre chiunque. Ecco perché non abbiamo un divano letto, ma abbiamo comprato una brandina, ora. E quando andiamo a letto con un ospite che dorme nell'altra stanza, lei mi prende sempre in giro, perché dice che alla fine ho ceduto al suo ricatto. A me invece viene in mente una frase di mio padre che mi diceva: ricordati che tua moglie non è parte della famiglia. Tua moglie rimane sempre un'estranea. Tu ospiti lei, lei ospita te. Mirko. I could sleep. When I lived alone, is there a ghost in grazie a Riccardo che mi scrive: il luogo dove si balla il tango si chiama Milonga. Ho 34 anni, ballo tango e sono avvenente. Questo però, Riccardo, ti prego, lasciamolo dire a qualcun altro. Non diciamoci tra di noi che siamo avvenenti, altrimenti rischiamo di pestare qualcosa che non fa. Ciao, sono Nicola, questa è una mail che è arrivata. Voi siete qui, @radio24.it. Ciao, sono Nicola, avevo 15 anni, ora ne ho 35. Faceva caldo, era estate. I miei genitori erano usciti tutto il giorno. A un certo punto suona il campanello di casa un mendicante di colore che vende fazzoletti. Mi chiede qualche lira per poter mangiare qualcosa. E allora gli dico: dai, entra, ci facciamo una bella pasta asciutta. Poi sono subentrate tutte le paranoie che ti mettono in testa i genitori, ma me ne sono fregato, ho fatto benissimo. Una bella chiacchierata tra amici, scambio di culture, si vedeva che gli mancava la famiglia. Sembrava sincero. Spero di essere stato il suo amico greco e che si ricordi ancora di me. Tutto qua. Ciao, cordiali saluti, Nicola. Grazie a te, grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina, a Paolino Corleoni e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Leglio e parlava di ospitalità. Quella di domani è la storia di Giovanna e parla di viaggi in autostop. In quelle lunghe ore mia madre, mio fratello ed io abbiamo ascoltato rapiti i suoi racconti. Racconti di orrore, di meraviglia, odio, tenerezza, tradimento, di passione e di angoscia. C'erano fiumi limacciosi pieni di sanguisughe, ma coperti di fiori di loto. Giungle insidiose, ma traboccanti di orchidee. E poi alcol, oppio, preghiera e magia. Poi se ne andò e io non l'ho mai più rivisto.